Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non amo i soprassalti, eccetera. Io non ho, sono sotto una pressione, Nicky, che è crescente, ma come dire, io sono, se, non ci penso proprio, tanto per essere chiaro, ma proprio. Mi sembra di vedere mia sorella. Poi è iniziata la sarabanda del Baron della Repubblica, che continua fino a questa cosa che insomma hanno spedito i miei, ma una sarabanda, e lui non si rende conto che io più vedo un imprenditore dietro a un'operazione politica, io più ho conferma di tutte le mie preoccupazioni. Un imprenditore che si fa sentire, che si fa eccetera. Mi segui? Sì, ti seguo benissimo. Stasera mi è suonato il campanello. Mi è venuto un dubbio, ma l'imprenditore al quale avevi accennato chi è? Perché adesso non vorrei... il padrone della Repubblica. Ah, ecco, allora avevo capito bene. Continuamente, con una forza in diretto di SMS attraverso un suo giornalista e attraverso adesso questa cosa che hanno lanciato mezz'ora fa di chi vorresti il ministro dell'economia, dove io ho la metà dei consensi, capito? Questo è il modo di scegliere, di forzare, di scegliere, di discutere. Una volta chiedendomi, ma se lo fai cosa fai? E se io ti dico che faccio una patrimoniale da 400 miliardi di euro, perché secondo me va fatta, che mi rispondi? Va bene? Qui c'è la follia? Lo so. Va bene tutto, caro Parenzo, va bene tutto. Però noi non sappiamo se queste pressioni di De Benedetti, come titolano oggi molti giornali, sul signor Barca ci siano veramente state oppure no. È poco importante saperlo. Non lo so, diciamo, o pensiamo che Barca sia un mitomane, un pazzo, oppure pensiamo che queste pressioni ci siano state. Legittimo. Però, ho sentito delle cose in queste ore, per esempio la signora Serracchiani, renziana di ferro, governatrice del Friuli Venezia Giulia, che a mio parere dovrebbe stare più a Trieste che nei salotti televisivi, però vabbè. Con te ieri sera, peraltro. È un piccolo parere, un modesto parere. Però dice addirittura che Barca si è autocandidato. Cioè lo fa passare per un pazzo scatenato che ha raccontato delle puttanate, ma in realtà è lui che si è autocandidato. Adesso sì, francamente questo mi sembra troppo, dai, su. Sta succedendo esattamente questo, cioè sta succedendo che ci sono tante autocandidature, sta succedendo che ci sono tante persone che si arrogano il diritto di fare telefonate. Cioè lei sta dicendo che Barca potrebbe averlo fatto apposta? No, dico semplicemente che è paradossale che una persona che evidentemente ritiene di poter, o si ritiene lui di poter fare il ministro, evidentemente, come dire, scrive dicendo: oh, se dovete chiamarmi non fatelo, Cioè, ma ti rendi conto o no? Cioè, vogliono far passare questo Barca come un mezzo mattoide, cioè, o addirittura come un mitomane che dice una cosa, ma in realtà è lui che si autocandida. E questo è francamente esagerato. In Veneto noi diciamo peggio il taccon del buso per questi renziani. Vabbè, questo non c'entra nulla. Sai che qui vicino a me c'è un ospite, sì, che li riconosce dalla voce. Mi hanno detto, mi hanno riferito delle cose. Stia zitto adesso, per hanno adesso. Hanno fatto la spia. No, a me sta benissimo, però stia zitto. Ma poverino, è circuito. Allora, io dico una cosa, pure Formigoni esagera insieme ad altri, perché Formigoni sostiene che grazie a me, grazie al sottoscritto, caro Telese, grazie al sottoscritto, è stato impedito che andasse al governo un altro tassatore. C'è qualcuno che dice, grazie alla Zanzara, qualcuno ironizza, grazie a Zanzara avete impedito che ci va qualcuno al Ministero del Tesoro che vuole mettere una patrimoniale da 400 miliardi. A me dispiace invece. Mi fa morire la curiosità. Mi lasci dire, felicissima colpa della Zanzara. Bravo Cruciani che ha impedito che al Ministero dell'Economia vada un altro tassatore che avrebbe messo l'Italia definitivamente in ginocchio, perché la ricetta non può essere aumentare le tasse. Poi andiamo a Brunetta, il quale dice che la Zanzara è seria, qui mi cascano le braccia. Ma come? Quando Brunetta dice che la Zanzara è seria, no, non ma no, allora devi saperlo, perché non io ieri in transatlantico l'ho fermato e gli ho detto scusi, poi ti mando la registrazione, ho detto scusi Brunetta, posso fare la domanda? Cretino, con la Zanzara non parlo, cretino. Così ha detto, ieri, prima di sapere della telefonata di Barca, e qui mi arrabbio, Brunetta, qui mi arrabbio. Tanto che ce frega, qui tanto non viene mai, dunque possiamo dire quello che vogliamo. No, non parlo. A parte che diciamo lo stesso quello che vogliamo. Comunque sentiamo Brunetta, sentiamo. Forse scherzava. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Meno seri sono gli altri protagonisti che cadono nelle trappole molto serie della Zanzara. Vabbè, ma se uno ci casca la Zanzara. Vabbè, ci pigliava per il culo, dai, non intendeva seria. Per carità, mi ero preoccupato subito. Non siete seri per niente. Ecco, appunto, no, questo è importante. Feltri. La telefonata, per esempio, della Zanzara è una cosa bellissima, divertente dal punto di vista giornalistico, poi svela un personaggio, Barca, che tutti pensavano fosse diverso, però sono piccoli episodi che non possono incidere sull'attività di governo e sulla composizione del governo. Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città, qui sulla strada. E passano quei passi amari. Oh, pure Striscia la Notizia, alla Repubblica vogliono decidere i nomi del governo. Striscia la Notizia, very popular. Ma avete sentito? Secondo Barca è De Benedetti che sceglie i ministri. Alla Repubblica vogliono decidere i nomi del nuovo governo. Cosa ne pensa l'esimio di queste torbide manovre? Che figura di me. Troppo forte. Oh, Grillo alle 7. Grillo alle 7 va a Sanremo, tra poco, tra pochi minuti si presenterà a Sanremo. Beh, posto per lui, giusto. Allora, nell'89 a Sanremo lì diceva. Lì deve andare lui, non nelle piazze, in Parlamento, lì deve stare. Nell'89 a Sanremo diceva, senti, ascolta questo. Io qua però non ci dovrei essere, è inutile. Perché se sono qua, vuol dire che denuncio la mia sconfitta. Sì, Sanremo è la mia sconfitta, come uomo e come professionista. Sono un fallito, come voi giornalisti. Giornalisti che avevano un decoro, gente con tre lauree. Che andavano a Kabul, adesso li vedi che cercano, dov'è Peppino Di Capri che sono rovinato. Questo. Ma abbiamo con noi non Luca Telese. Ma Telese lo è sappiamo, qua, lo so, ciao Luca. Ciao. Non mi fate ste sorprese, che poi mi indispettisco. Però abbiamo con noi uno degli inutili idioti, non è definizione mia, Ha detto Alfano, non è che l'ho detto io, ha detto Alfano. Sì, vabbè, però detta così. Ma ho capito, mica lo penso io, ma ha detto Alfano. Signor Alfano ha detto quelli che circondano Berlusconi sono inutili idioti. Siccome è molto vicino al presidente Berlusconi, ed è la senatrice Emanuela Repetti, compagna di Sandro Bondi. Buonasera. Buonasera. Come sta? Ma in quanto vicina, dice lei, particolarmente a Berlusconi, dovrei essere ancora più inutile e ancora più idiota, probabilmente. Secondo Alfano, secondo Alfano, lei invece, non si butti giù, per lei invece, così. Che cos'è Alfano? Ma guardi, Io non voglio scendere nelle così in basso come è sceso Alfano. Beh, è sceso molto in basso, però, Alfano. Sì, beh, insomma. È sceso molto in basso. Davvero una caduta di stile non da poco. Ma io ho un giudizio sempre molto molto severo sul nuovo centrodestra, su sì. Alfano. Ecco, ma se lei dovesse scegliere, mettiamo che ci sia una scelta secca, no? Berlusconi, che ne so, tra cent'anni, di scegliere tra Renzi e Alfano, ma lei chi voterebbe tra Renzi e Alfano? Chi sceglierebbe? Mi dica la verità. Ma io sa, lei mi vuole tirare in questa... No, che tirare? Cioè, o mangi sta minestra o salta dalla finestra. Io allora, il fatto che Renzi oggi così io abbia espresso una simpatia, chiamiamola così, e sì. Poi un'ammirazione anche, dai, un'ammirazione. Sì, certo, no, ma questo l'ho sempre detto, non solo negli ultimi tempi. Comunque sembra un ragazzo, un uomo coraggioso, lo ha dimostrato anche in questi ultimi giorni. Sì. È un outsider, non lo possiamo negare, tutti sono un po'. Ecco, chi vuole ammettere e chi non lo ammette, certo. Ma comunque un po' tutti. Senta, mi dica una cosa, quali sono le cose in comune che hanno, secondo lei, Berlusconi e Renzi? Sicuramente il fatto di essere outsider, no? Degli outsider tutti e outsider, due. Outsider, ma anche nella sì. comunicazione. Ieri guardavo anche sorridendo, avevano forse proprio su Striscia la Notizia fatto vedere quando Renzi diceva riprendete la rubrica in mano, chiamate le ex fidanzate, imitando proprio, anzi quasi andando a recitare, no? Cioè imita alcune cose di Berlusconi, secondo me, ha proprio ripreso. Direi, sì. Direi che è più Renzi che imita Berlusconi, che non è. Beh, no, quello sicuramente. Cioè Renzi, secondo lei, si vede Berlusconi, in televisione e fa ogni tanto qualche ripassino. Ma Renzi ha delle capacità comunicative sue, senza dover imitare nessuno. Però io ogni tanto che la comunicazione del presidente Berlusconi, beh, insomma, è un suo. Sì. E poi un'altra cosa in comune che cos'è? Se è un grande pregio e quindi cerca di imitarlo con le sue capacità. Beh, certamente è un innovatore. Un innovatore. Anche un innovatore come lo è stato Berlusconi. Senta, ma non è che il suo compagno ha già fatto delle poesie per lui, no? Signor Bondi. No, non ne è scritto. Non è scritta per Renzi. Non è un periodo da poesie. Non è periodo da poesie. Traffico, torniamo subito. Telese, dove sei? Eccolo. Ma se ci sei, saluta la senatrice Repetti, subito, immediatamente. Buonasera. Dire che oggi ero con David. Senatrice Repetti, si è autoinvitato, io non c'entro niente. No, cioè, avvicinavano tutti e dicevano, scusa Renzo, ti posso parlare? Dai, era concordata con Barca, era concordata. Sì, tutti anche Civati te l'ha detto. Dai, dici che era concordata perché è venuta, era copionata. Guarda, ma se capiscono, dicevano che era copionata. Se capissero come avvengono le cose qui, in maniera, se vogliamo, anche tumultuosa, in maniera. Chi altro te l'ha detto? Ma due o tre, tutti giornalisti, dai, era concordata, politici, dai, che si avvicinavano. Ma figuriamoci, noi concordiamo qualcosa con Barca. Sì, con Barca. Ma figuriamoci, traffico. Sei ancora a casa? Per adesso, nonostante i guai che abbiamo combinato, nessuno ci ha cacciato. Senatore Dell'Utri, 800240024, la Zanzara inizia con una presenza che è quella di Luca Telese negli studi di Roma insieme a David Parenzo. Abbiamo anche la senatrice Emanuela Repetti, Forza Italia, conosciuta anche come compagna di Sandro Bondi, ma anche dotata anche di sua autonomia, ovviamente. E senatrice Repetti, io voglio capire una cosa, l'avevo fatto una domanda, lei però cerca di sviare. Se lei dovesse scegliere... È diplomatica oggi. Scelta secca, Renzi o Alfano? Mi dica, tanto lo sappiamo, lo dica apertamente. Probabilmente sa cosa accadrebbe? Che farei parte di quel popolo di astenuti. Non è vero. Renzi, lei metterebbe la X su Renzi? Io le ho detto quello che farei in questo momento, certo. Se Renzi dovesse, mi risulterebbe difficile, mi creda, anche se naturalmente Alfano come programmi, come posizione. E risulterebbe difficile scegliere Alfano. Certamente è più consono alle mie... Però non riuscirei a votarlo. Non ce la farebbe proprio a mettere con la mano. Molto proprio. Ma come? Vero su di lui e su tutti quelli del nuovo centrodestra, perché... hanno abbandonato Berlusconi nel momento più difficile della sua vita, l'hanno lasciato lì, e questo per me non è difficile da digerire, non c'è dubbio. Scusi un attimo, ma che cos'è che le ha raccontato Berlusconi, che cos'è che ci trova Berlusconi in Renzi, cioè al di là delle cose che si sono dette, cioè, qual è il feeling tra i due, qual è la chimica che si instaura tra questi due personaggi secondo me? No, perché c'è una chimica, al di là delle cose in comune che possono essere chiare. Beh, ma come dice lei, se c'è una chimica è talmente personale che non c'è può una chimica, però altri. c'è. Ma, non lo so, questo lo dice lei, probabile, io so. Beh, che, per forza. Come lui, ma quello, lui dice quello che dice pubblicamente, ne ammira comunque il coraggio. Coraggio, che non è comunista. E beh, è un liberale, certamente non è un liberale inserito a sinistra, quindi certamente è un aspetto nuovo della sinistra, una sinistra che finalmente si rinnova e si rimodernizza, si riallinea alla realtà, e Renzi ben venga, ecco, su questo piano. Ma che fate? State zitto là a Roma? State zitti a Roma? No, no, no, no, ascoltiamo religiosamente perché... Sappiamo che la Repetti è renzusconiana, una cosa così, ed esprime un movimento di pensiero. Renzusconiana, le piace renzusconiana come termine? No, guardi, ma non lo so se sarà un nuovo termine. Io renzusconiana, dai. Telese sa benissimo che finché c'è il presidente Berlusconi, per vabbè, me... quello non c'è dubbio. Vabbè, ma questo lo sappiamo. Non ho alcun dubbio su dove schierarmi. No, no, ma fra Alfano e Renzi... Tra Alfano e Renzi, dai. Alfano, ma perché non lo vuole dire? Lo dica, perché adesso è umiliante per noi, per la sua intelligenza. Io mi porrei in quel popolo di elettori ma che astenuto. E probabilmente non voterei. Senta un attimo, ma lei ci crede alla storia che la Pascale ha picchiato Berlusconi e è caduto? Ed Berlusconi è caduto, secondo me. Ma non diciamo sciocchezze. Conosco abbastanza Francesca per sapere che non alzerebbe un dito nel modo più affatto. Vabbè, ma succede ogni tanto che tra due persone che si vogliono bene uno gli danno schiaffo, ma avranno le loro discussioni, ma proprio non lo riesco neanche a pensare, sono proprio fantascienza. Però è vero che la signora Pascale mette bocca nelle cose di partito, nelle nomine, in queste robe qui, un po' è vero, Ma mi dovete spiegare come mai, quando una donna, non è vero che mette bocca, io credo che abbia il diritto, no, di parlare, ma chiunque lo farebbe, lo fa un uomo, è lecito ed è normale che dia un consiglio, che si esprima. Ma no, ma pare che scelga, perché non credo che lei condizioni nessuno. Berlusconi, quando consiglia, deve prendere decisioni, non si fa condizionare assolutamente da nessuno. Sì. E Francesca fa delle considerazioni, immagino, ma poi nemmeno più di tanto. Beh, ogni tanto ha i suoi amici, nemici, come in tutte le cose. Parle, si dice sempre che condiziona, che mette becco, ecco, sempre questi termini molto maschilisti che io non condivido. Lo consiglia molto, ma è normale che la compagna, se lui è innamorato... Ma che è normale, ragazzi, ma di che parliamo? Ascolterà, dai, cosa dice la moglie, no? La compagna. Ma sì, ma pare che decida ogni tanto qualche nomina, qualche persona. Gente, ma può essere. C'è un clan Pascale, esiste un clan Pascale. Come il cerchio magico di Boss, esisterà il cerchio Pascale o no? Assolutamente no. No. No. Oh, intanto è arrivata una notizia clamorosa. Del divorzio. Il divorzio, signore Repetti, Berlusconi e Veronica hanno divorziato. Notizia di qualche secondo fa. Una cosa pazzesca. Il contenzioso economico però va avanti. Caro gli costa. Succede in molti casi. Quello gli costa caro. Poi economici siano lunghi. Ma vuole troppi quattrini la signora Lario, secondo lei? Se sono vere le cifre che ho letto, sono tanti, poi non posso, non si può dire. Anche lei infierisce anche lei vuole infierire su Berlusconi, diciamo la vita. Anche lei approfitta un po', diciamola tutta. Sì. La signora Lario. La signora Lario, sì. Anche lei, su. Lo dice lei. No, domanda. Sta dando delle notizie proprio originali. No, originali, lo dicono tutti, che insomma, tanti, sono tanti soldi. Quegli alimenti sono spropositati, non trova, non è tanto. Dico il suo parere. Alimenti, lei sta dicendo che lo condiziona nelle sue decisioni. No, condiziona, no, i soldi, sono tanti soldi e gli alimenti sono eccessivi. No? Certo che sono tanti. Cioè, quindi è stata un po' avida. Sono veramente tanti, sono tantissimi, non oso neanche pensare come si possa... cioè, quasi chiedere tanti soldi così, però poi non quasi una vergogna, diciamo, quasi una vergogna di poter capire se sono troppi, questo è un altro discorso. Non sta a noi valutare, non abbiamo gli elementi. Ma è troppo diplomatica. Anche lei si accanisce. No, non è che sono diplomatica. No, ma non è un insulto, è una constatazione. Senta, però qui siamo a una domanda cruciale: la questione di Grisby. Caro Telefi, sapete chi è Grisby? È il cane della signora Repetti e di Sandro Bondi. Allora, ha il pelo come quello dei biscotti. Che prima c'era un gatto, l'hanno ammazzato perché con la moto di Dudu serviva un cane. Come l'hanno ammazzato? Scusa, ma è vero, no, che c'era ammazzato un cane e un gatto di Bondi, no? E poi fatto fuori. Avete ammazzato, Dudu, avete ammazzato i gatti, no? Ma guardi, io abbandonato sono per strada, no? Molto seria. La domanda è questa: Grisby ha conosciuto Dudu? No. No, Grisby sta quasi sempre a casa. Niente, niente, no. Niente da fare. Strano, no, però. No. Ma che razza è sto Grisby? Bastardino. È una razza, quella che io prediligo, naturalmente è un meticcio. Perché non l'avete chiamato Angelino anziché Grisby, visti i rapporti che corrono lì in famiglia? Mi sarebbe risultato difficile accarezzarla come faccio. No. Ma è vero che scodinzolava Alfano come un cane davanti a Berlusconi? Come un cane, nel senso, non so chi è che l'ha detto. Vabbè, lei alcune esponenti del suo partito. Cioè, lei l'ha frequentato insieme, no? Berlusconi e Alfano. Sì, sì. Com'era di fronte a Berlusconi? Era un po' servile, diciamola tutta. Ma io non voglio cadere in queste considerazioni. Guardi, io sono ancora molto più dura di chi magari dice queste cose. Ho trovato veramente terribile quello che lui ha fatto. È stato un vero e proprio tradimento. Politica ha fatto, e quando l'altro giorno loro parlavano di tradimento, risulta quasi una profanazione nelle loro bocche la parola tradimento. Dovrebbero veramente guardarsi allo specchio e vergognarsi. Sì. Magari anche sputarsi nello specchio, no? Quello no. No, questo no. Questo no, per carità. Un esame di coscienza e riflettere di più quando parlano, aprono la bocca. Sì. Vabbè. Che facciamo? Troppo. Giornale Radio. Arrivederci, buona serata. Saluti. Giornale Radio. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Poi c'è qualcuno che esagera, eh. Per esempio, ho sentito, credo, questa mattina un giornalista del Fatto, un amico, Antonello Caporale, dire che il nostro agguato, così lo chiama, è utile per gli studenti di giornalismo. Adesso non esageriamo, dai, su. L'agguato telefonico della Zanzara, mi spiace molto per Fabrizio Barca, però è illuminante, molto utile anche per noi, perché illustra come non si possa, per uno studente, chiedere la maturità classica e fare l'esame di privatista studiando sul biglietto. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così. Qualcuno se la prende con l'accento della telefonista di Vendola, l'accento Gentiloni, che non sarebbe, cioè Vendola non può avere una segretaria milanese, no, ma sostiene Gentiloni che Barca doveva accorgersi che era una cosa farlocca, perché la segretaria la de Milan, ma dai, su, come fai, sta lì a Napoli col telefonino in mano, dai, su. Gli hanno fatto un brutto scherzo e è chiaro che, diceva sempre mia madre, non parlare con gli sconosciuti, e nei telefonini compare sconosciuto, no? Forse bisognerebbe a sto punto rispondere solo quando uno riconosce il nome, se ci sono delle persone così importanti. Poi magari la segretaria di Vendola con quell'accento milanese anche a me mi avrebbe fatto però, fare qualche domandina. Così è. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il Renzi avvia le consultazioni, sì, dai centristi, aperture da Galli in corso, l'incontro con Alfano, domani il Cavaliere del Rio, governo pronto in settimana. Nel programma una svolta su lavoro e fisco, ma resta di riempire la casella chiave del Ministero dell'Economia, un aiuto dallo spread che scende sotto 190. Grillo attacca, queste consultazioni sono una farsa, ma sarà la rete a decidere se andare, chiusura netta dalla Lega, nessuna fiducia al nuovo esecutivo. Commercianti ed artigiani in rete e imprese a piazza a Roma. Basta tasse, serve una svolta per uscire dalla crisi. La Corte Suprema rinvia per l'ennesima volta l'udienza sui Marò, l'ira dell'Italia. Bonino richiama l'ambasciatore, le compagne dei militari a Sanremo. È dramma profughi in Siria, 1 milione di minori in fuga dal conflitto. Molti sono i piccolissimi come Marwan che ha attraversato il deserto. Parte questa sera il Festival di Sanremo, sul palco dell'Arison musica, spettacolo, ma anche l'eco dell'attualità del paese, attesa per il blitz di Grillo. Voglio assolutamente possedere a tutti i costi, lo dico a Parenzo, non so se c'è ancora Telese lì a Roma. No, se n'è andato, però sta vagando negli studi alla ricerca di non so che cosa. C'ho qui un futuro forse ministro, non lo so, al mio fianco. Vabbè, dopo, aspetta. Però è qui che gira sto signor Telese con tutta sta roba, entra. Allora, io voglio assolutamente possedere la maglietta che ha fatto stampare il mitologico Antonio Razzi. Ecco, lo sapevo. No, ti giuro, ha fatto stampare una maglietta con il volt, con la sua faccia, con la faccia di Razzi. Sì. Te lo dico da amico, c'è scritto sopra: fatti i cazzi tua. Ecco. Ti giuro, guarda che questo è il contributo del senatore Razzi, che tu preferisci al senatore Piano, sempre ricordato. Alla democrazia, ed è un legislatore, capito, il senatore Razzi. Ma non Razzi. Fare il finto tonto, non fare il e questo lo pagano pure. Soldi. E questo lo pagano pure. Ma non faccio il cretino. No, lei, donna Assunta. A proposito. Allora, io voglio quella maglietta. Hanno trovato il busto di Almirante. Voglio quella. No, veramente? Sì, l'hanno segnalato. No, veramente? Ma dove? A casa di Barca. Ma dai, su. Se l'è comprato Barca o un mercatino l'ha usato. Dicono che è stato segnalato lì. A casa di Barca ci sarebbe il busto di Almirante. Dai, non prendere per il culo la signora Almirante. Dai, ogni volta. Poi se la prende. Se la prende. No, non l'hanno trovato. Mi dispiace molto. Allora, io voglio quella maglietta a tutti i costi. Senatore Razzi, mi raccomando, la prima volta che vengo a Roma, vieni in studio con noi e ci dà questa maglietta. Voglio girare per l'Italia intera con la maglietta, con il volto di Razzi. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tua. Perciò, fatti un po' i cazzi tua, non rompere i coglioni. Ti prendo dei cazzi suoi, ma fammi pigliare pure i cazzi miei. Ti ho fatto un poco di cazzi tu, eh? Questa è la crozza, beh. Beh, certo, è la crozza. Claro. Sì, te lo dico da amico. Sì. Te lo dico con la pace nel cuore, fatta le cazzi tua. E lui, genio, ha fatto la maglietta. Ma è un genio quest'uomo. Ti amo, Razzi, ti amo. Razzi è meglio di Piano. Razzi è meglio di Piano. Razzi è meglio di Piano. Perciò, batti un po' con le cazze tu e non rompere i coglioni. Ma scusa, ma il contributo di quest'uomo è indifendibile. Il contributo di quest'uomo è indifendibile, veramente. Ah, il buon umore. Ah, ha un po' di buon umore, ma ti credo, ha vinto la lotteria di Capodanno un giorno. Dai, su, ma vuoi mettere con Renzo Piano? Dai, ma non c'è paragone. Ma in che cosa sei riuscito? Qui tutti prendono i cazzi suoi, ma fammi pigliare pure i cazzi miei. Ah, è un genio quest'uomo, dai, è un genio. Insieme a quest'altro, signor Buonanno, ah, Buonanno, ecco, che ho visto. Che ha fatto? Ho visto, gesta di ho visto ieri sera a Quinta Colonna. Che ha fatto? Ha saltato in un cerchio di fuoco. Dice che bisogna... Cosa ha fatto? Chi c'era? Anche la donna barbuta? Chi no, c'era? Dice, a parte che c'era pure, mi sa, quell'uomo che sta vicino a te, quel signore che sta vicino a te. Ogni tanto ci va pure lui. Dunque, non è sera. Che devi pensare che uno no, a Quinta Colonna va lì e per forza. No, non c'era. Non vabbè, c'era, comunque non c'era. Ci va più volte. Ma anch'io ci signor sono Buonanno, che dice che bisogna prendere a calci nel sedere la Fornero. Che secondo me invece per la storia delle pensioni, a parte gli esodati, ha fatto benissimo ad alzare l'età pensionabile. Benissimo. E certo, ho votato contro, ho votato contro. Fosse stato per me la fortuna da prendermi da un calcio nel sedere così. Su. Primo, la Fornero è una signora e quindi non lo potevi fare in maniera metodica. Cioè, ha mimato, non è saltato nel coso, ma ha mimato il calcio in culo alla Fornero. Ma c'è Grillo in diretta da Sanremo che dice ai giornalisti: siete morti viventi. Sentite. E sono le ragazze. Allora, si è già detto di tutto perché siete alla ricerca, vai avanti, calmi tranquilli, è della polizia lui, no? Chi è? Lui c'è un negozio di frutta e verdura, è fantastico. Che cosa farà l'Ariston, dentro l'Ariston, che farà stasera? Solo dirvi che ci sono già stati esponenti del PD ex meno L, attenzione, che hanno minacciato una denuncia per interruzione di servizio pubblico. Ma stai piano, non c'è bisogno. Calma. Ma lui è della... di chi è lui? C'è un po' di casino, eh? Allora, no, lasciategli un po' di spazio a lui, lasciategli un po' di spazio. Cioè, prima si informa su chi è come giornalista, poi dice lasciategli un po' di spazio. Del partito PDX meno L. Da già la sua versione che io potrei essere denunciato per interruzione di servizio pubblico. Siamo qua, ecco, è come Minority Report, cioè si guarda già il reato prima ancora che avvenga. Io non so cosa voglia dire servizio pubblico, perché non sto andando su un autobus o dirotto o faccio un dirottamento di un treno. Sto entrando in un teatro con un biglietto. A vedere il Festival di Sanremo. A vedere in un teatro un festival. Allora, è servizio pubblico? Vogliamo dire che cos'è il servizio pubblico? Ma vorrà parlare? Il pubblico? Tito, guarda! È impazzito. C'è Renzi, andate! C'è Renzi! È a Roma, sta con Alfano! Sì, Renzi è! Ecco, allora, se voi siete ancora convinti di fare del servizio pubblico, se siete convinti che ancora la parola pubblico abbia un senso, allora, oggi la RAI è la maggiore responsabile del disastro economico, politico e sociale di questo paese. Su questo non sono ha torto. Sono venuto a dimostrare questo perché è un SPA dove si spartiscono miliardi fatti, vero, dati dai pensionati a 130 euro col canone, miliardi che vanno a società fuori, 5 società si spartiscono 1 miliardo di euro pubblici, ne sappiamo 3, sono sempre i figli degli ex dirigenti. Sta parlando, no? Degli appalti esterni della RAI. Mieli, abbiamo il figlio di quell'altro, abbiamo Bixio, abbiamo tutti quelli. Allora, la RAI è una cosa meravigliosa, 13.000 dipendenti che costano 1.700.000.000. Ma ha ragione o no su queste cose? Sì, ha ragione. 1.700 milioni per 13.000 dipendenti. E invece 1.400.000 viene fatto con lavori dati in appalto fuori. Allora, noi siamo venuti. Vabbè, riprendiamo dopo. Intanto Willy da Napoli. Buonasera, Willy. Buonasera, sono in linea. Sì, dica. Senta, Crociani, io le metterei un bel soprannome. Mi dica. Salvatore. Perché Salvatore? Perché lei ci ha salvati. Io ho 80 anni, 56 di professione forense, qualcosa ho messo da parte, l'84% degli italiani è proprietario di immobili. Barca c'ha un nome stimato in economia, era tra i papabili ministri, e se lei non faceva quella telefonata, che spero sia stata riferita a Renzi, e questo ci ammazzava tutti. Ah, con la patrimoniale, dice lei, L'84% degli italiani veniva spessato da questa patrimoniale. Adesso questo non lo so, comunque credo che avesse già in mente di rifiutare. Francesco D'Ancona, vai Francesco. Vabbè, salve Cruciani e Prenzo. Dimmi. Buona serata. Allora, io sono un tipo molto incazzoso e incazzato nero. Bene. E sono incazzato anche con voi. Ottimo. Perché bene. Fate degli ottimi imbecilli in trasmissione. Perché vi proponete ancora di sentire questi ladri politici, gente a cui andrebbe rotto il culo sì, nel bene. Vero senso della parola. Vabbè, Francesco, ma lei è da internare, insomma, non è un problema. Andre e vanno presi a calci nel culo, come sì. qualcuno ha già detto. Sì. È gente che non merita nessun tipo di rispetto. Ma quando lei cosa fa nella vita, Francesco? Sputateli addosso. Ecco. Perché ma perché bisogna sputare addosso? Sputati. Addirittura. Non solo. Ringrazio io Grillo per questa roba, uno per ogni palo di luce. Addirittura. E mi auguro che si torni fermo al manganello, lì, fermo al manganello. Un manganello pesante. Come qualcuno voi avete citato. Avvertite Almirante. La questura, sì. Allora? Anche avete citato Almirante. Sì. Ben venga un Almirante che porti avanti un discorso preciso. Sì, col manganello, pulizia, magari col manganello in mano. Manganello in mano, Pulizia, abbiamo bisogno un attimo. Di pulizia. Zanzare, gli treve di montagna, in colina, in campagna e a campare. Se qui tutti pensano i cazzi suoi, ma fammi pigliare pure i cazzi miei. Una parola domani la te vista in città. Splendida battuta di Enrico Montesano. Sentite, sulle elezioni, siccome in Italia non ci lasciano votare, anche se in realtà abbiamo votato un anno fa, ma comunque, insomma, il terzo presidente del Consiglio sarà il prossimo, il terzo presidente del Consiglio che non viene votato direttamente dagli italiani, Montesano. Le elezioni sì. sono una cosa sessuale che col passare del tempo non avvengono più? In realtà l'accusa all'Italia una volta era che si votava troppo, cioè si votava troppo spesso e i governi cadevano troppo velocemente. Comunque allora c'era Francesco D'Ancona, mentre fra poco presentiamo l'ospite a Roma. Allora ci vorrebbe il manganello, dice lei. Intanto no, io dico solo una cosa, siccome non c'è più vergogna per questi politici, non c'è più vergogna, merda, sono merda. Degli squallidi di merda, squallidi proprio. Di merda, certo. Allora io faccio parte di quella categoria di persone, ma che perché hanno non spara le, direttamente pagano le tasse. Oggi sono incazzati neri, sono stati a Roma e siamo incazzati neri con le banche perché ci aprono degli interessi fuori dall'ordinario. Ma perché non spara direttamente la vita sto Francesco D'Ancona? Io non sparo, io non ho bisogno di... io credo nelle istruzioni, credo nella polizia, ma non mi pare mi aspetto che sia la polizia ad arrestare questi delinquenti, sulla questi base ladri, sulla base di quali reati ladri. Io dico soltanto, ho votato Movimento 5 Stelle, armatevi di bastoni dentro al Parlamento, dovete menare. Menateli. Ma lei sta dicendo una cosa gravissima, Francesco, che dentro prendi il Parlamento i 5 Stelle devono portare i bastoni e menare, si rende conto o no? Sì, sì. Ma come si? Sì, niente, sì. Noi non ne possiamo più di questa gente. Ma lei che lavoro fa? Non... Che lavoro fa lei? Ma niente. Io non ne posso più di questa gente. Che lavoro fa lei, io Francesco? Io pago solo le tasse, mi vedo... Vabbè, quello lei ha ragione sulle tasse, però allora, che lavoro ascolti, fa lei? Che lavoro ascolti, fa? Dopo 40 mica anni di lavoro fa, sai quanto mi danno di pensione? Ho pagato pensionato. Centinaia di migliaia di euro di contribuzione, 500 euro al mese. Non so che lavoro facesse prima. Sì, io faccio un lavoro di professionista, libero professionista, dica, tanto però. Di laurea e tanto di... Non so, lei ha la pensione laurea. Decisa dallo Stato e che sicuramente fino adesso non è stato ingeneroso con i pensionati, diciamo quelli che hanno contribuito ovviamente, no? Quelli che non hanno contribuito. Certo, di fatto sa che io dopo tanti anni di lavoro e dopo tanti versamenti di contribuzione, siccome adesso è cambiato il regime... Vabbè, ho capito, vado, adesso siamo... Grazie che c'ho un'altra situazione pensionistica allora? Che fa parte delle... Vabbè. Del mio ente di Francesco, la devo abbandonare. Bastoni dentro la Camera dei Deputati, dice lei. Comunque le dico solo una cosa. Mi dica solo una cosa. Noi di questi ladri non ne abbiamo bisogno. Vabbè. E la cosa che mi dispiace, sai che cos'è? Cos'è? È che noi abbiamo due marò all'estero. Ma quello che c'è, e non sono stati capaci di difenderli. Non ciao sono Francesco, capaci ci difenderli. Senso. Ciao amico, ciao. Ritorno. Ma abbiamo con noi l'uomo della Smart, uno delle persone più vicine a Matteo Renzi, quello che l'ha portato in Smart, gli ha prestato la Smart in realtà per andare a parlare con Letta. C'era anche il coltello dentro la Smart. Ernesto Carbone, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Non c'è male. C'era il coltellino dentro la Smart? Gli hai lasciato pure il coltello insieme? No. No, tutto a mani nude. Tutto a mani nude. Cioè, le dice l'ha strozzato, l'ha strozzato a mani nude. Un po', dai, un po' c'è stato lo strozzamento. Dai, ma diciamo ma quale strozzamento? Ma quanto si è arrabbiato Renzi per questa cosa di Barca? Ecco, appunto. Non lo so perché non l'ho sentito da ieri ma sera. Ma dai, su, però non ci venire a coglionare. Si è arrabbiato non sentito, o no? Quindi non un po' si è arrabbiato. No, non l'ho sentito. Quindi ma dai, stavi con lui, su. Ma dai. Non è vero, figurati, stavo a casa mia tranquillo, da solo, disperato. la quale da solo disperato. Da solo disperato. Vabbè, ma ha reagito a questa storia di Barca? Come l'ha presa? Insomma, l'avete contattato Barca? Non ci vuoi raccontare di Renzi. Ma è vero che Barca è stato contattato, secondo te, o no? No, non lo so veramente, perché non sono tra le due persone che stanno seguendo. Chi sta seguendo? Del Rio, eh? Sono Graziano Del Rio e Lorenzo Guerini. E Guerini, loro si occupano di tutto, diciamo. Ma esatto. Tu ci credi che gli abbiano offerto il ministero a Barca o no? Insomma, mettiamola così, dai. Ma non ho idea, perché non credo che sia ad oggi offrendo ministeri. Finirà le consultazioni, si farà un'idea, qualcuno inizierà a si alla lista, ma non credo che abbia offerto un ministero a nessuno. Però allora Barca è un visionario, un mitomane. Non lo so, questo lo stai sei inventato tutto? Non lo so, questo facciamo una chiamata e chiediamoglielo magari. No, questo è il momento più opportuno, diciamo. È il momento più adatto. Però scusami Ernesto, ma adesso è adatto a fare il ministro dell'economia secondo te? Oppure è sicuramente una persona preparata e brava, ha dimostrato di saper far molto. Poi se è in grado o meno di fare il ministro dell'economia, questo non lo so. Però diciamo la verità, un'offerta c'è stata. Non lo so. Ci credi alle pressioni di De Benedetti? Non può essere inventato tutto. Dai, non si può essere inventato tutto. Io ho visto che De Benedetti ha smentito, mi sembra. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Dai. Ma io sto ai fatti. Benedetti ha detto che non l'ha mai chiamato, non ha detto nulla, e quindi credo a quello che dice De Benedetti. Ah, credi a De Benedetti e non a Barca, diciamo la verità. Cioè, tu credi che Barca un po' si è inventato delle cose, un po'. Dai, ma potrebbe essere così, diciamo. No, vabbè, ma adesso non è che puoi. No, ma non lo so, Giuseppe, veramente, non lo so. Adesso non mi fate litigare con nessuno, per favore. No, ma noi quello facciamo di mestiere, far litigare la gente. Voglio evitare, hai capito? No, però un po' si è inventato delle cose, ha esagerato. Magari avrà esagerato un po', ecco. Si è sovrastimato, possiamo dire così, si è sovrastimato. Diciamo così. Dunque, io però voglio sapere una cosa. Secondo te, Del Rio ha chiamato Barca per offrirgli un ministero? Cioè, c'è stata questa offerta oppure lui anche questa cosa qui se l'ha inventata? Secondo me. Poi magari è successo l'esatto contrario. Secondo me ad oggi non hanno chiamato nessuno. Ma come nessuno? Perché dovranno. Ma appunto, prima fa incontrare tutti quanti, dopo secondo me decideranno che cosa fare. Tutti insieme. Però prima devono incontrare tutti. Stasera finiscono con il nuovo centrodestra. Ma sembra il casting dell'Isola dei Famosi. Perché riceve tanti no, Renzi? Perché riceve tanti anche no? Anche il signor Renzo Rosso ha detto di essere stato contattato e lui ha detto di no. Ma è vero anche Renzo? Secondo me ci sono troppe persone che dicono che sono stati contattati. Anche Cruciani dice che è stato contattato. Questo mi pare difficile. Lo vogliono mettere i rapporti col Parlamento, il signor Cruciani. Quello sarebbe straordinario. Traffico, basta, non mi rompe i coglioni, cosa vuole? Ma c'è qualcuno che ha detto di sì oppure vi dicono solo no? Scusi Carbone, cioè nomi c'è a sentire questi qui, tutti dicono dei no, quindi appunto. Cioè, ci sarà qualcuno che farà monocolore solo Renzi. Ci sarà qualcuno che alla fine fa l'economia o no? Cioè, qualcuno lo trova tutto Renzi è presente il consiglio, ministro dell'economia, tutto lui. No, ma per esempio Del Rio secondo lei è uno che lo può fare? Sì. Beh sì, Del Rio è bravissimo, ci mancherebbe. Grazie alla persona lo può più fare. Ma perché non fate lui? Ma lo devi chiedere a Renzo, Napolitano ha incaricato lui, mica me. Facciamo il Toto Ministri. Io farei subito te e Parenzo. No, subito. Facciamo Vabbè, andiamo a fondo. Anzi, Parenzo sottosegretario alla presenza del Consiglio, subito. Secondo me dicono di no perché nessuno ha voglia di bruciarsi con Renzi, che ha iniziato col peccato originale, come dice l'Osservatore Romano. Ma il peccato originale, però, ti vorrei ricordare che col battesimo... Col battesimo scompare. E che tipo di battesimo può essere? Quello che salva Renzi? Fare, vedrai che farà tanto. Sì, Ma sì. Quanto l'hai pagata la Smart? La Smart, no, ti racconto la Smart. La Smart era di un mio amico, che si chiama Fausto Orecchia, che saluto. Non è manco tua? No, aspetta, fammi finire un attimo. Fausto Orecchia? Era di questa, Fausto Orecchia si chiama. Fausto stava andando a rottamare questa Smart, che era distrutta, era ferma da 2 anni e mezzo. Ma veramente stai dicendo? Sì, giuro, non sto scherzando, è tutto vero. A che lo incrocio, metti in gioco, sono andato a buttare via la Smart. E tu come butti via la Smart? Aspetta un attimo, sono andato a vedere la Smart, l'ho portata da un meccanico, l'ho fatta mettere a posto e via. Cioè, questo è il modo in cui tu hai preso la Smart, diciamo, hai comprato la Smart. Da un tuo amico Fausto. Fatto il passaggio di proprietà che stava buttando via perché era ferma da 2 anni, non andava più. Era gli hai dato così. Un mezzo catorcio a Renzi alla fine. Ma che mezzo catorcio? Hai visto come è entrato allegro? Tonico. Io poi non ho capito. Tonico, certo, c'aveva lo stiletto lì sul fianco. Scusa, io voglio dire una cosa però. Questa famosa Smart, adesso che fine fa? Ce l'hai tu? Ce l'ho io, certo. Ma perché? Già da qui sotto. Ma non è dote la presenza del Consiglio? Potrei venderla però, sai che è una donna alla presenza del Consiglio. No, che poi ci accusano di qualunque. No, no, per carità. Ma tu lo fai ministro alla fine? No, assolutamente no. Ah, non faccio il ministro dell'agricoltura? Non faccio il ministro dell'agricoltura. 100%. 100%. Ma siamo sicuri, guarda, sì, che lo stai giurando qui, no, davanti alla zanzara. Non eh? Faccio nulla, accetto scommesse. Ma a parte che devi dare i soldi là, non so che cosa, 22-23 mila euro, ma... sembra. Devi dare questi soldi o no? Sì, pare. Ma che dare questi soldi? Ho già querelato tutti, quindi ci mancherebbe. No, noi non vogliamo essere querelati, abbiamo già tante querele, esatto, per carità. No, non vogliamo. Ma tu sai che il signor Carbone è, ha dei rapporti molto, molto tesi col popolo dei grillini. Lo volevano quasi menare una volta in commissione. Ma veramente? Sì, sì. Ma Grillo adesso dice che Renzi viene dal nulla, mandato dalle banche. Che cosa ha detto Grillo? Che Renzi viene dal nulla, pagato dalle banche. No, è il nulla, è un governo voluto dalle banche, mandato al governo dalle banche, il vuoto, capito? Beh, signor Grillo. Affermazione, insomma, di alto respiro, di ampio respiro. In un vabbè, ma Grillo è così, è inutile. Una crisi di governo, si fa un governo nuovo, Grillo fa una dichiarazione, vedo un punto di vista politico molto interessante. Ma secondo te è un movimento avversivo quello di Grillo? No, avversivo no, assolutamente, però è un movimento che non sta facendo nulla, purtroppo questa è la verità. Ci sono tanti ragazzi anche bravi, sì, devo dire la verità, i miei colleghi che io ho profonda stima, ma vengono schiacciati. Schiacciati da Grillo e Casaleggio. Da Grillo e Casaleggio. Ma hanno un potenziale violento però i grillini. Ma non è un potenziale violento, poi ti ripeto, cioè, ci sono persone che sono in grado di fare tanto, persone che secondo me erano disponibili a dialogare sulla legge elettorale, persone anche che erano disponibili a dialogare adesso con Renzi che ha avuto l'incarico, però a quanto pare anziché fidarsi dei propri deputati preferisce consultarli online, quindi... Senti, ma un altro invece, un altro grande vecchio della politica italiana, Macaluso, dice che Renzi è interessato molto alle nomine. Adesso non mi dire che non è così, perché sarà interessato a queste nomine. Renzi è interessato a cambiare il paese, quale nomine? Vabbè, ma adesso non fare la sbioglianata. Le nomine sono l'ultima cosa, le nomine. È l'ultima cosa di cui si occupa. Ma sì, sono tante cose importanti, pensavo alle nomine, figuriamoci. Vabbè, ma le nomine sono importanti. No, però Renzi l'aveva detto, cioè nella rottamazione non si rottavano solo i politici, si rottavano anche tutti questi qui che da anni sono le solite facce. La rottamazione è un modo di cambiare le cose. Quindi riguarda anche questi qui, scaroni. Sicuramente no, sicuramente riguarda anche in quelle cose, riguarda un modo diverso di vedere le cose. Non è così che tu vai a rottamare una persona, rottami un modo di fare nei grandi enti, che ha ammazzato questo paese. Nei grandi enti, chi è stato tanti anni, bisogna che venga cambiato o no? Beh, se uno è stato tanti tanti anni, innanzitutto vediamo i risultati come prima cosa. Io ti vorrei ricordare che qua abbiamo avuto un manager di Alitalia che l'hanno distrutta e sono andati via con liquidazione milionaria. Quindi innanzitutto vediamo i risultati. Dopodiché, sicuramente, se uno sta da 30 anni, da 20 anni allo stesso ente, cioè, uno come un Scaroni, ricambio, troppo tempo a Leni, per esempio. Ma non sto parlando di Scaroni, no, assolutamente. Dico, perché non sono, guarda, molto onestamente non so neanche se abbia fatto bene o male. Scaroni non conosco così bene i numeri dell'Eni per dire se abbia fatto male o bene. Però Scaroni non mi sembra che sia da tantissimo tempo a Leni. Beh, un po' comunque. Di tempo, sì. Ma il discorso è se uno fa bene o fa male, sempre quello. Poi basta guardare i numeri, no? Ma Letta che gli avete offerto alla fine? Cioè potrebbe fare il ministro, no? No, ha detto lui che non vuole nulla, che non vuole fare assolutamente. Ma che, nulla. Che farà? Non lo so, dovete chiedere a lui. Ha dichiarato che vuole fare un viaggio in Australia, mi sembra. No? Dove lo vedresti bene Letta in futuro? In esilio? In Europa? Ma Enrico Letta è bravissimo, può fare tante cose, può fare ciò che vuole. Dico, è stato bravo, dai, purtroppo... Ha avuto purtroppo un momento non felice, non felicissimo, e non ha avuto magari l'energia necessaria per fare un po' di cose più forti. L'energia necessaria. Yes, energia necessaria. Ma perché vi dicono tutti sto mondo? Perché per esempio volevate fare ministro Montezemolo? Io ho detto, ma che c'entra? Ma chi l'ha detto questo? Ma sì, tu l'hai detto? Ma non che lo dico io, lo dicono tutti. Beh, è un nome che gira, eh? È un nome che gira, non è che lo dico ma io. Ma gira pure il mio, figuriamoci. Allora tu smentisci comunque, io al 100%. Certo, guarda che se fai ministro dell'agricoltura vengo lì con i forconi, altro che Grillo, eh? Cioè... Appunto, proprio con i forconi. Sentiamo un po' che dice il pazzo, sta là davanti a Sanremo. Grillo? Abbiamo superato i costi con la pubblicità, è una menzogna vera o è una vera menzogna? Perché sì che recuperano i costi con la pubblicità di Sanremo, ma si azzera la pubblicità negli altri programmi delle sere di Sanremo. Quindi sono allora voglio capire una cosa, ma è NCD... Ma dov'è, scusami, è fuori o dentro no, adesso? No, subito fuori l'Ariston. Allora io voglio capire una cosa da Carbone, che è un fedelissimo di Renzi, è quello che gli ha dato la Smart, uno che... Beh, è suo amico da quando avevano 20 anni più che altro, dicono, questo devi dire. Dicono che può fare ministro, lui però ci ha detto al 100% non faccio il ministro dell'agricoltura. Vabbè, ma sarà un governo di quanti ministri secondo te, Ernesto? Dammi un numero. Non lo so, ma questo, ne, guarda... Almeno non sul numero, dai. No, non è un problema di numeri però, Giuseppe, veramente. L'importante è fare le cose fatte bene. Se poi, credo io, che se i ministri poi sono 12 piuttosto che 14, poco cambia alla fine, no? Non è un problema di quanti sono basta i ministri. Basta farne uno in meno di Letta, però. Basta, no, eh? È vero o no, Carbone? Basta, no, uno in meno di Letta. Guarda, se dovesse essere un in più e il governo fa le cose, è meglio così, no? Vabbè, ma no, però, dunque non ci sai dire quanti numeri saranno, di quanti persone saranno, non ce lo sai dire. Ma sarà un governo Renzi Alfano come vuole nel CD? Bella questa definizione, Renzi Alfano. Renzi non ridisce, governo Renzi Alfano. Sarà un bellissimo governo Renzi, presidente del Consiglio è Matteo Renzi. Ha capito, ma dovete fare un accordo con Alfano, capito? Quello ci vuole. Per capito, forza. Ma lo faranno sicuramente l'accordo. Anche ci con Cicchitto, l'accordo, ci vuole anche Cicchitto lì. L'accordo si fa. L'accordo la politica si fa. È accordo, sì, sì, d'accordo. Se ma quelli si fanno accordi, si fanno le guerre. Ma l'Italico, come loro vogliono abbassare tutte le cose, no? Le sai, le soglie, vogliono abbassare le soglie dell'Italico. No, sull'Italico veramente c'era un accordo, che la soglia era 4,5%. Si tocca quella soglia? No, non si tocca. L'accordo è già raggiunto, non si tocca, si andrà avanti con le votazioni. E quelli puntano i piedi però, signori. Ma una è materia di governo, un'altra è materia parlamentare, mio caro. Doppia maggioranza, questi non la vogliono la doppia maggioranza, i signori Alfano, Cicchitto, Formigoni, ma Giovanardi. Sì, per forza, perché se tu vai a scrivere le regole devi scrivere con le con più ampio scusa, ma scenario tu, possibile, no? Carbone, io dico una cosa del genere. Ti senti un po' in imbarazzo al governo con Giovanardi? Prima diciamo c'era Letta e dunque te la sbrigavi così, io non so. Adesso tu Renziano, dimmi la verità, sei in imbarazzo o no? No, imbarazzo no, la pensiamo diversamente su mille cose, su questo non ci sono dubbi. Poi se iniziamo a fare le cose importanti, un accordo lo troveremo, anche per chi la pensa come me e chi la pensa come Giovanardi. Però imbarazzo no, onestamente. Vabbè, ma lui al massimo deve essere imbarazzato per le sue idee, non io. Lui deve essere, lui che deve essere vero, imbarazzato per le sue idee. Sì, è uno che dice comunque quelle cose, guarda, sì. Se è riuscito a fare una riforma al mese tipo Goldrake, cioè una riforma al mese, dai, su una cosa impossibile, non ci riesce nessuno. Qui manco in 4 anni hanno fatto una riforma, ti pare che fate una riforma al mese? Però dai, ti ricordi la legge elettorale, 8 anni nessuno ha fatto niente, in un mese l'abbiamo votata in Parlamento. Ma che avete votato? Abbiamo votato le pregiudiziali di costituzionalità. Vabbè, abbiamo fatto 2 voti segreti. Già 2 settimane tutto di il rinvio. Casino che avete parlato pure voi, voto segreto, voto non segreto, voto segreto è andato benissimo. Già 2 settimane di rinvio, 2 settimane di rinvio. Per l'algoritmo e per il decreto che era in scadenza. Non mi parlare di algoritmo. È questa la cosa. L'algoritmo. Cioè. Grillo ancora, fammi sentire Grillo che mi diverto un attimo. Grillo. Sincero, semplice, è un uomo che non dice parolacce, è ben voluto dalle persone di una certa età. È un uomo che fa, ma non è un giornalista, è un programmatore regista. È un programmista regista, il suo contratto è un pacchetto, non è giornalista. Ma che è un pacchetto da 5 milioni e 5 all'anno, parla? Più 600.000 dichiarati dalla Rai 650. Ma secondo lei, Carbone, all'economia per esempio ci vuole un politico questa volta? Grillo all'economia, mettiamo Grillo come ministro dell'economia. Che succederebbe all'Italia? Alla grande, secondo me, guarda, andrebbe Grillo un all'economia, treno. Che succede? Dai. Grillo all'economia. Che succede? Andrà, c'è il disastro, c'è... Ma scherzo, andrà benissimo. La bancarotta. L'economia, ma figurati che va in Europa, risolve tutto, usciamo dall'euro, ritorniamo alla lira, farà un sacco di cose meravigliose. Ma ci vuole un politico all'economia o no, secondo te? Ci vuole uno che abbia sensibilità politica, senza dubbio. No, ma un politico vero e proprio, un uomo politico, finalmente, dopo tanti tecnici. Secondo me ne sarà un tecnico con una sensibilità politica. Un tecnico. Sai che si fa il nome del signor Bini e anche Smaghi? No, dai, non ci posso credere. Ti assicuro? Adesso gli facciamo uno scherzetto e lo eliminiamo. No, anche lui, dai. Eliminiamo, dopo Barca, eliminiamo anche lui. La signora Reichlin, che... No, ma perché uno deve andare a pescare questi nomi qua? Perché la signora Reich, ma perché? Ma fa un altro mestiere la signora Reichlin, un altro economista mestiere. Apprezzata, editorialista del Corriere. Basta con gli economisti all'economia, devono essere politici con i consulenti. Politici con i consulenti, gente che ha il polso della situazione. Secondo me sì, dai. Ma no. Vediamo che si sceglie. Secondo me è un tecnico anche necessario, lì è importante. Un tecnico, Un tecnico. Sì. Tecnico con sensibilità. Dunque politica. Sarà ricordate un tecnico. Che è stato un grande ministro dell'economia, Padoa-Schioppa. Padoa-Schioppa era un tecnico, ma aveva una forte sensibilità politica. Le tasse non puoi dire. Sono bellissime. Vai, su. Era più ampio quel ragionamento. No, lo so, Disse, le tasse sono bellissime, perché pagare le tasse. E io infatti sono d'accordo. È una cosa per il bene del paese. Le tasse è bellissimo pagarle tutte, perché vuol dire che stai pagando. Qual è il difetto principale di Renzi? Il difetto principale di Renzi, per quanto mi riguarda, è che corre. Io non gli sto dietro. Vabbè, quello non è un difetto, ma io ho un difetto. Sono più rilassato. Dimmi un difetto. Si è mai fatto una canna tu, Ernesto? No. Ma come no? No, ti giuro, no. Mai. Te l'avrei detto. Mai. No. Vabbè, magari questo c'è da crederci. Sì, c'è da crederci, Parenzo. Beh, sì, io lo conosco, sì. No. Mai, mai, peccato. Mai. Peccato. Perché? Ma no, così perché ma sei a favore della legalizzazione però delle droghe? È una di quelle cose su cui non riesco a decidere, ti dico la verità, perché da una parte vorrei, cioè ti dico di sì. che si affronta invece... un problema, e dall'altra però dico, perché rendere libera una cosa che comunque uno fa per essere stordito, per non per perdere la lucidità, ecco. Modello olandese, no? Questi coffee shop, queste, no? Vabbè, io voglio dire, non è che confermate Saccomanni alla fine all'economia, no? No, non credo, però non dipende da me. Vabbè, ma che... Ma certo che non dipende, niente dipende da te. Appunto, allora che mi fai queste domande? Ernesto, non lo so. Carbone, grazie. Ciao, grazie, ciao, a te, ciao, ciao Giuseppe. Ciao. Federico Modena. Pronto? Federico, vai, vai. Sì, eccomi, ciao, buonasera. Vai. Senti, io mi devo scusare perché ti ascolto sempre in podcast, ma ho i miei buoni motivi, perché cazzo c'è troppa pubblicità. Lo so, ma la pubblicità serve, dai. La pubblicità serve, dai. Ma la pubblicità la capisco, ma è la pausa delle sette. Non me ne parlare, non mi parlare che divento una iena, dai, su, non mi parlare che divento una bestia quando mi fai fai questa cosa. Ma non è colpa tua, non è colpa tua, dai. No, assolutamente. L'altra cosa che ti volevo dire è su Parenzo. Io sto ascoltando le puntate la settimana scorsa, ma è caduto in una banalità. A me lo dici. Sai dove lo vedrei bene? Lo vedrei al programma che c'è prima dell'una, come si chiama? Melog. Bellissimo. Lui e quell'altro, Nicoletti, mi pare che si chiami. Adesso lasciamo perdere Nicoletti, non c'entra niente. Bellissimo, che sia diventato di una melassa inaudita, sì, è vero. Poi dipende dai giorni, È una roba incredibile. No, senti, io a proposito di Parenzo, mi volevo dire la mia su Luxuria. Non tanto sul gesto suo, ma sulla difesa spada tratta di Parenzo. Ma io dico una cosa, ma se tu ti presenti vestita così, con la parrucca, con dei cartelli, è giusto che ti urlare slogan, è giusto ti che fermano ti arrestino. Anche a Milano. Ma sveglia, Federico da Modena, svegliati, ma svegliati. Stiamo parlando della Russia di Putin, dei gendarmi di Putin. Ma quali gendarmi? Svegliati. Ma smettila. Vieni da una terra che è la terra dei diritti, oltre che del tortellino. Basta baracconate. Mamma mia. Basta baracconate. Tu dici basta baracconate. Diritti, basta baracconate che non servono. Come si difendono i diritti? Caro ma da Modena. Quali diritti? Caro Federico da Modena, come ma si quali diritti? Ma quando mai? Non facendo delle carnevalate assurde, ma carnevalate? Quali carnevalate? Le carnevalate sono quelle che non hanno conseguenze. Lì non è una carnevalata, ma smettila. Un arresto, a parte un che fermo, scusami, di polizia. Pubblicità. È la zanza, la zanza. 30.000 all'anno per il suo ufficio. Sapete quanto ha speso avendo a disposizione 30.000 euro per tutto l'ufficio? No, ve lo giuro sui miei figli, 138 euro! 138 euro che sono troppi dal punto di vista genovese, devi aver fatto una cresta. Voglio persone per bene, oneste, che decidono di fare una cosa per passione, non per mettere in ginocchio. Allora, noi dobbiamo fare, mandarli a casa tutti. Io ho fatto una campagna politica, ve lo ricordate, sono venuto anche qua. A casa tutti, e prima di andare a casa facciamo il politometro, non il redditometro. Vogliamo sapere come spendono i nostri soldi loro, non come loro spendiamo i nostri soldi. Andiamo e faremo anche il managetometro. Perché hanno venduto tutto, si stanno svendendo tutto, ci siamo svenduti sovranità popolare, ci siamo svenduti sovranità della moneta, sovranità alimentare, stiamo svendendo tutti, adesso ci vanno le cariche. Allora Gubitosi, il direttore della RAI, Gubitosi che ha portato da 200 a 400 milioni la perdita della RAI, dove andrà secondo voi? Andrà a lire, perché le referenze sono meravigliose, ha fatto un buco doppio di quando è entrato. Andrà a Leni, andrà da qualche parte, e così magari prenderà 4-5 milioni di buona uscita. È questo il paese che volete? È questo il paese che volete? E allora bisogna che ognuno di voi sia curioso, non creda più a questa gente. Questi sono i Walking Dead, questi sono i morti. Guardate le facce di questi qua, guarda le facce, ti arrivano e ti mettono la telecamera qua, il microfono nella gola. Voi siete i Walking Dead veri. E se siamo precipitati al 70esimo posizione di libertà di stampa è per merito vostro. I TG della RAI, i TG nominati dai partiti, TG1, TG2, TG3, basta! Basta! L'opinione deve essere informata, chi dirige questi TG, come li fanno? Come ci mettono i loro registi? Se vai in un talk show mentre parli inquadrano la faccia di Gaspari, potresti dire la Divina Commedia, che quando inquadrano la faccia di Gaspari hai già perso. oppure inquadrano un ginocchio. Tanto più che quella. Era Grillo che continua in un comizio pazzesco, lunghissimo, prendendosela con tutti, praticamente con la Rai, con i giornalisti, con i politici, con chiunque. Sta attaccando adesso i giornalisti in cioè, maniera forsennata. Capire, questo signore qui ha comprato, se non sbaglio, un paio di biglietti, dice addirittura 10. Ma per ognuno può fare all'Ariston quello che vuole nella vita, e amico fin mio. Qua, e fin qua vuole siamo fare d'accordo. Un comizio fuori e dentro. E, allora, siamo d'accordo. E allora? Ora ci sono le elezioni europee, questo qua è un leader di partito. E, allora? E vuole usare il palcoscenico di una cosa decotta, qual è il Festival di Sanremo. Allora? Perché l'unica cosa che ci sarà è questa roba di Grillo per fare il suo comizio politico. E allora, ora, qual è il problema? Se lo avesse fatto ho capito che l'hai votato, quindi ma lo che devi c'entra? Ma non c'entra niente. Andiamo, che avanti, l'ho votato, con, andiamo avanti con il ragionamento. Però l'hai difeso, benissimo, l'hai votato. Ma io non sto difendendo nessuno. Questa roba? Tu stai criticando il fatto che quello vuole fare un comizio fuori dall'Ariston e dentro l'Ariston. Io dico che è un pagliaccio. È ma un pagliaccio. Che è un pagliaccio che usa il Festival di Sanremo per fare la sua propaganda. Allora, politica. La gestione della Rai è uno scandalo. Vabbè, a parte Grillo, è giusto che, ogni tanto cose? Qualcuno lo ripeta a voce alta. Perché non hanno già pubblicato da settimane, mesi, ogni anno gli stipendi, i compensi. Ci voleva Grillo davanti all'Ariston. Fermo, ci voleva. Fermo. Ma non vi incazzate voi, amici miei. Parlava Grillo prima di amministratori, no? Di amministratori con le mani bucate. Di amministratori con le mani bucate. Non vi incazzate quando leggete che esiste a Napoli un uomo che si chiama Gennaro Salvatore, uomo di fiducia del governatore campano Caldoro, ai domiciliari per rimborsi fasulli, il quale avrebbe speso 12 euro per un accappatoio, 90 euro per accessori di motocicletta, 63 euro per riparazione di telefonia, 4.165 euro in articoli di regalo presi in gioielleria, 3.446 euro in spese di articoli per la casa, 90 euro in articoli sportivi, 106 euro in CD musicali, 23 euro per una bombola a gas della Casa al Mare, 44 euro in farmaci, 9 euro e 80 in un giocattolo, 6 euro e 40 in gomme da masticare, 5 euro e 10 centesimi in un colorante per capelli, la tinta, 66 euro in libri scolastici, 36 euro per un paio di occhiali da vista, 1139 euro in prodotti alimentari, 759 euro in prodotti per la cura della persona, 35 euro in pacchetti di sigarette. Non vi incazzate di fronte a queste cose, sono soldi vostri usati per i cazzi loro. Tommaso da Milano, dai. Buonasera Crociani. Dimmi. Allora, semplicemente, quanto è successo ieri, lo scherzo, sì, che avete fatto a Barca. Il fatto che lei prima diceva caporale che dovesse... Sì, ma in realtà non diceva dovesse... poi quella roba lì. Comunque... Ma insomma, stamattina hanno scomodato, sì, pure il direttore del Fatto. Sì. Dicendo che tramite quella telefonata... è stata lesa la privacy di Barca. Sì, diciamo che detto dal Fatto Quotidiano è un po' bizzarra, appunto, questa cosa. Io dico, loro che pubblicano quanto esce dalle procure il giorno stesso che il giudice ha deliberato, anzi deliberato. No. Sì, no, ho capito. E quindi... No, ma anch'io ho notato questa cosa, vabbè, ma chi se ne frega, Tommaso? Perché pulpito, una cosa incredibile. Va bene, grazie. Enzo da Foggia. Ok, eccomi Crociani. Sono stato docente all'istituto tecnico frequentato da Vladimiro Guadagno, ora in arte Luxuria. Cioè lei è stato il professore di Luxuria dove? All'istituto tecnico commerciale di Foggia, il Pascal, che frequentava. E me lo sono dovuto sorbire alla gita di Quinta a Firenze, dove... mi è scappato la notte con un po' di ragazzi che si è portato dietro in discoteca, abbiamo dovuto farlo riacchiappare dalla polizia, quindi se vogliamo è stato preso molto tempo prima che da soci. No, non ho capito, scusi Franco, lei era professore di cosa, scusi signor Franco? Enzo da Foggia, Enzo da Foggia, Enzo. Ero docente di informatica all'istituto tecnico. A Firenze? Dove? No, a Foggia. A Foggia. Come si chiama? Come si chiama l'istituto? Enzo, liceo tecnico Pascal di Foggia. Liceo tecnico Pascal, ma che verifichi? Cosa verifichi? Cioè, non ho capito, lui scappava con chi? Questo lo dice lui. No, siamo andati in gita a Firenze. In gita a Firenze, sì. E la notte ho scoperto che era scappato dall'albergo dove eravamo alloggiati e abbiamo dovuto sguinzagliare la polizia a Firenze per riacchiapparli. Ma vabbè, che faceva? Già aveva le sue... Lui era, da sempre manifestava le sue tendenze legittime, anzi è stato un ragazzo molto discreto per tutto il periodo scolastico. Sì. Ha fatto solo questa piccola scappata al quinto anno. E, sì. Per cui io penso che lui ora poi ha fatto lavori tranquilli tipo il commesso nei negozi a Foggia, poi ha aperto Mucca Pazza, da lì secondo me lì è un grande paraculo, sì. Nel senso che sta, ha trovato la strada giusta. Ma io non ho capito perché lei ci ha raccontato questa cosa che scappava durante le gite scolastiche, cose che succede a tutti. No, per dire che era un ragazzo assolutamente normale. E vabbè, allora? E che ora ci sta marciando di brutto su questa sua, diciamo, tendenza sessuale personale, semplicemente per farci soldi. Ah, lei dice ci vuole solo fare i soldi con questa ci roba? Sta, sì, sì, un grande. Cioè, non gliene fotte nulla dei diritti degli omosessuali? Non gliene fotte assolutamente nulla. Anzi, era un ragazzo molto discreto, era molto tranquillo, timido. Vabbè, questo non c'è. Secondo lei non gliene fotte assolutamente nulla dei diritti degli omosessuali, vuole solo fare il quattrino, i soldi? Secondo me sì, assolutamente. Ma da dove trae questa cosa? È un artista, primo, quindi può fare quello che gli pare, un artista, quindi... Ovviamente, certo. Per il fatto che abbia semplicemente e soltanto approfittato sempre delle sue tendenze, sbandierandole oltre ogni limite, perché ci sono molti altri ragazzi che io conosco come lui, che invece molto discretamente conducono con sofferenza la loro vita. Ce n'ho per esempio uno, adesso insegno all'università, c'è un ragazzo che è, diciamo, nelle sue condizioni, che però minaccia il suicidio perché non riesce ad esprimere i suoi problemi. Quindi non, diciamo, lui è un grande furbacchione, ha trovato la strada giusta per fare fruttare la sua le sue tendenze. Pubblicità. Tu sei come una piccola zanzara. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Isterico. Agostino, provincia di Roma. Eccolo, Peppino. Ciao Agostino. Mi piaci che c'è il carattere mio. Che carattere c'ho? C'è il carattere che piace a me. Senti, però te porti appresso qua mezza pippa di Parenzo, porca puttana. Che dopo, è così. C'è ragione pure tu, senti. È andata così, poi è peggiorato, prima era pimpante, adesso è diventata una gatta morta. Difatti, no, è un vecchio lecchino, capito? Vecchio è lei, Agostino. Comunista. Io comunista, sono vecchio, forse. Sono vecchio giovane di 88 anni, sta ostia. Beh, numero uno, Agostino. Insomma, mica me la passo male. Allora? Io a Bile mi monta tutti i giorni, hai capito? Per vedere questi quattro cornutoni dei papponi, ladroni dei politici. Ma lei a 88 anni è così vispo? E apposta mi mantengo, perché io sai che facevo. Ma che fa? Giovane. Si riempie di Viagra lei, sicuramente. No, io andavo ogni settimana dentro un ufficio pubblico. E mi incazzavo con l'impiegato. E mi veniva la bile in modo che io provavo a vedere se mi sentivo ancora bene, capito? Poi venivano i poliziotti e mi portavano via. Addirittura? Capisci la normalità, guarda, di questa persona? Forse te lo ricordi, i vecchi sportelli, quando andavi allo sportello, l'impiegato stava a sedi e il vetro era un arco alto. Sai quanti ne ho presi paragrafi e poi gli sbatte la testa addosso al vetro? Beh, a forse muovono massi bassi che passa solo col foglietto, capito? Però scusami Agostino, ma ogni tanto interveniva la forza pubblica o no? Sì, mi hanno portato via almeno una decina di volte. Ti credo. Sì, perché io facevo l'impiegata a una ditta dei trasporti internazionali. E allora? Mo mancava il timbro, mo mancava la firma, mo gli andava bene l'impiegato. Dico, ma c'è un collega suo, ci sente, a me non mi interessa, a me dimmi che. Ma li mortacci, mo tiravo con la cravatta, sbatteva la al vetro. Poi l'hanno fatti bassi che passa solo il foglietto, capito? E dice anche ti hanno portato via 10 volte, no? Ti hanno portato via proprio quello. Minimo, 10 volte, poi a dito non mi c'è più mannato negli sportelli. Guarda che ti sta pigliando per il culo, Parenzo. Certo. O sai che c'è, vedi, io che ti dico una cosa. Sì, scatenamelo conto, giusto, se capiamo, così senti, Pepì, io ho 88 anni, nel 1945 c'ero cioè la prima tessera del Partito Comunista a Piazza Scianchi, di fronte al Palazzo dei Sani a Via Trastevere. Allora? Dopo due mesi, siccome in assemblea qualche cornutone che stava sulla cattedra questi cardinali, eravamo chiamati agiprop, cioè agitazione e propaganda. Sì. Ci aveva istigato da Namena ai missini, ai democristiani, quando dovete attaccarli. Ma che titolo? Ma perché? Oh, bello compagno, tu devi. Ho preso la destra, l'ho strappata e gli ho tirata. Ma l'ho tirata perché è volata per Peschetti. Mi sono salvato perché noi eravamo una cricchetta dei 10 ragazzotti dei 17 anni. Sì. Andiamo a fare la clacca a un dirigente che era lo zio di un amico nostro. Allora? Quando faceva i discorsi, noi andavamo a Rissaro, a Montesano, lui faceva i discorsi e noi battevamo le mani. Mi sono salvato perché c'era lui, non va azzardato a toccarlo che sbatte il muro a tutti. E vabbè, ma guarda che Parenzo, ti volevo dire una cosa, Parenzo, che gli vuoi dire? No, ma curiosa sta. No, niente gli voglio dire. Che gli voglio dire? Ha restituito la tessera del PC. Vabbè, mi fa piacere per lui. Chi se ne frega. No, ma tu lo stai prendendo come un vecchio matto, Parenzo. Secondo te è un vecchio matto questo qua? No, vecchio non mi permetterei mai di dire. No, lo sai che di offendere gli anziani mai. Guarda, quello io non lo faccio mai. Io lo vedo in televisione. Sì. Non è un simpatichetto ragazzotto di 1,5 metri. Sì. Però è un lecchino, è quello 1,74. Che mi dà fastidio. È un democristiano. Sai che differenza c'è tra democristiani e comunisti? Ma come sono comunista? Che sta chiamato il democristiano è stronzo, il comunista non è stronzo, è figlio di una mignotta, capito? Addirittura. Ma non mi hai detto che ero comunista prima, scusa? Ma hai detto che ero comunista prima, ora sono democristiano. Ma da ragazzo. Ma io dopo due mesi ho strappato la tessera perché mi indicavano di andare a menare i missini. Dico, a che titolo devo andare a fare botte? Hai capito? Perché ci dovevamo dimostrare che eravamo i più. Agostino, che volevi dire dopo tutto sto sprologo? Ecco, senti, io con questi ladroni dei politici, questi si sono fatti in agenzia di polizia. E invece di andare a pulire magari la sozzeria, stanno a pulire le casse dello Stato. Vabbè, allora. Io a questi qui, il bene che gli voglio, gli auguro di campare 100 anni. Sì. 99 in ospedale e uno in agonia. Poi penso che. Addirittura. Sì. Dai, questi devono fare qua fino lì. Hai visto il balena quanto è grosso? 140 kg. Io ne peso 65-88 anni. Ma chi è il balena? E quello romano là è fiorito, come si chiama? Batman, che balena. Batman. Ho 88 anni, Pepì. Ciao caro. Mi piaci. Comunque io e te potremmo fare gazzimme, guarda. Potremmo fare? Però c'è Parenzo che. No, lui fa lo stronzetto, ti voglio tanto bene perché lui sei falso, peggio dei sordi quando girano quelli fasulli. La zanzara è quell'odioso insetto. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Dai il becco su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Emiliano da Pavia. Sì, pronto? Sì, dica. Sì, dica. Buonasera, niente. Beh, volevo prima di tutto farle complimenti perché stasera mi piace particolarmente. Non sempre, però stasera è molto bravo. Prima cosa. Vabbè, poi vado avanti. Vado avanti, dunque, io volevo fare solo una domanda. Ma che cos'è l'evasione? Perché io vorrei chiedere alla gente, l'evasione viene vista come un qualcosa fatta dal popolo, cioè la gente non paga le tasse. Fa un qualcosa, si crea degli utili, fa un commercio e non paga le tasse. Ma domanda... Un politico, io ho visto una trasmissione alla televisione dove hanno fatto vedere la regione Sicilia a Bruxelles, 18 impiegati hanno intervistato una dirigente, prendeva 2.000 euro al mese più ovviamente rimborso spese di altri 4.000, quindi 6.000 euro netti al mese. Hanno chiesto che cosa aveva fatto il giorno prima, ma abbiamo parlato per organizzare un evento e il giorno prima ancora che cosa avete fatto? Risposta, ma mica tutti i giorni possiamo parlare per organizzare. Pronto? Sì. Barbara? No, sta sbagliando. Non è Barbara Guerra? No, sta sbagliando. Mi scusi. Che dicevi? Non ho capito. Emiliano, che dicevi? Scusa, però vai al sodo, dai, forza. Chi va a controllare il lavoro di tutti questi burocrati? Chi va a controllare cosa rendono? Chi va a controllare cosa fanno? Sono loro i primi evasori. Non c'è, ha mai sentito la finanza che parte e va in un ufficio pubblico a vedere che resa hanno queste persone sul loro posto di lavoro? Mai. Vanno a controllare quello che non ha battuto lo scontrino del caffè. Beh, anche, vanno a controllare, certo, ma è giusto, certo. Ma chi va a controllare questi le regioni dovrebbero controllare, che sono i primi spreconi. Scusa, che discorso è? Un attimo solo, Riccardo da Bologna. Riccardo da Bologna. Pronto, buonasera. Dimmi. Volevo dire a Parenza che probabilmente con un neurone solo è molto difficile, se non impossibile, fare una sinapsi. Conseguentemente l'abbraccio fortissimo, mi piace molto quando attacca così per attaccare il Movimento 5 Stelle. Ma non è per attaccare. Fa la figura che si merita. Lo attacco quando c'è da attaccare, quindi non è che lo attacco a caso come le scimmiette del circo. Sta muto un secondo. Stia muto lei, caro Riccardo, da non so dove. Ascolta, qua a Bologna si dice, in bolognese, si dice mea io capè che te ne capè un caso. Buonasera, arrivederci. Ma che vuol dire, scusi, traduca? Meglio chi ha capito? Traduca, Riccardo. Ha chiuso, poveretto. Federico da Bergamo, dai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora? Volevo solo dire che l'avete bevuta voi la storiellina del presidente della RAI, del Beppe Grillo, che non salterà sul palco, che farà bravo. Ma in che senso l'abbiamo bevuta? Scusi, non ho capito. No, nel senso che dovete dire che per me il presidente della RAI pagherebbe oro se saltasse sul palco. Ah, non c'è dubbio, anche secondo me. Perché per l'audience, per il baraccone che fa tutti gli anni al Festival di Sanremo, di sicuro... alla prima serata avere un... No, ma quello non lo so, in realtà non lo so, perché gli ascolti, tanto comunque Sanremo li fa, il resto è totalmente vuoto, gli altri spariscono dai palinsesti, eccetera. Per cui non lo so poi se alla RAI conviene il casino di Grillo all'Ariston. Come se ne parla? Ma come prima serata penso che è una spintarella per le altre serie, dicono stasera c'è quel zoppino qua, magari domani... Vabbè, poi Federico, poi... Io volevo dire, per il discorso di quel signore che voleva mandare i grillini con battone, io avrei in mente un'altra idea, nel senso, quando gli danno la poltrona al Parlamento, dargli anche pronto darmi una pistola, che quando, se proprio devono litigare, possono mandarsi a far culo, che si fa fuori tra di loro, vediamo chi resta in piedi, e buonanotte. Ma che vuol dire, Federico, che vuol dire? Ha bevuto. Hanno rotto tutti le balle. Hanno rotto tutti le balle, certo. Sì, Vito da Matera, Vito. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Buonasera. Allora, il mio intervento è molto semplice, riguarda Luxuria e il suo fare un po' da pagliaccio, come ha detto lei, Cruciani, o tu, se posso permettermi. La mia telefonata verteva invece sulla dichiarazione di Parenzo. Parenzo diceva che la pagliacciata tra virgolette di Luxuria era giusta, e anche no, secondo me, perché non l'ho mai definita una pagliacciata io, perché no, l'ha utilizzata Cruciani pagliacciata, ecco. Ma lei, diciamo che in parte condividendo quello che diceva Parenzo, mi sento di dire che Luxuria ha fatto una cosa giusta. Vabbè, allora... cioè per scardinare dei diritti ha fatto una cosa esagerata. Allo stesso modo penso, mi parla anche di pagliacciata quella che sta facendo Grillo fuori l'Ariston, dentro anche. Io chiedo a Parenzo di dare una differenza tra le due pagliacciate, se dire a Parenzo... No, lui pensa... Ma guarda che è talmente stupida questa cosa che state dicendo. Scusami Parenzo, fammi finire un attimo. Scusami, solo per dirti che per scardinare, ad esempio... Non si capisce perché Grillo non deve avere diritto di fare casino davanti all'Ariston a Sanremo, invece Lussuria ha diritto di fare casino a Sorgio. Se non lo capisci, E il sottofondo è scardinare delle problematiche allora, serie come quelle della RAI. Grillo non scardina proprio nulla. Da una parte in Russia ti arrestano se sventoli una bandiera, dall'altra in Italia ti fai pubblicità perché sei candidato alle elezioni, non lui direttamente. Ma che c'entra l'elezione europea? Sono a maggio, ma falla finita, mancano 3 mesi e mezzo. Usi politicamente il Festival di Sanremo per fare la tua pagliacciata. Io parlo di azioni eclatanti. Ma non è eclatante per lei, è eclatante se ti arrestano. In Russia è eclatante perché ti arrestano, ma come fate a non capire la differenza? Però mi arrendo ormai. Altrettanto medievali, mi segui? No, no, non ti seguo, perché se tu lo fai in Russia, sventolare una bandiera comporta che ti prendono, ti portano in un commissariato, gli scagnozzi di Putin, e ti tengono lì in un commissariato in Russia perché hai sventolato una bandiera. In Italia invece si fa il comizio davanti all'Ariston, tutte le telecamere lo riprendono, qualcuno addirittura lo applaude, mi pare una differenza sostanziale tra Grillo, sì, e la signora Luxuria. Non bastano solo le pubblicazioni o gli studi fatti da grandi scienziati, non bastano più, serve anche chi urla questo. Mi pare che l'unica cosa che fa Grillo è quella di urlare e di farsi pagare poi il biglietto per il prossimo spettacolo, anzi questo è la pubblicità per il suo prossimo spettacolo in giro per l'Europa, te la do io l'Europa, metti la cosa, andrà in tour. Cruciani, come la pensi, Cruciani? Ma su che cosa? Io non credo che sia la pubblicità per la campagna elettorale per l'Europa. Ma che c'entra che l'ho votato? Non dire cazzate. Prenditi la responsabilità di quello che hai fatto. Io l'ho votato. Quindi. Io l'ho votato. Bravi tutti e due. Mi permetto di dirlo, l'ho votato per quello che... Marco da Como. Buonasera. Dimmi. Sentendo la telefonata intervista a Barca, ma è contemporanea a quella che avete fatto Nida? Perché allora Bersani forse... di una mano di De Benedetti ne ha bisogno, adesso non mi sembra di no. Allora il PD era messo veramente male, mi è venuta in mente sta cagata. No, non ho capito bene, scusa Marco, puoi ripetere un attimo, perché veramente no, non ho capito. Mi è venuto in mente, sentendo la telefonata, che potesse essere contemporanea a quella fatta ad Onida, allora quando subito dopo le elezioni il PD era messo veramente male e probabilmente c'era qualcuno che spingeva e telefonava e messaggiava per sistemare dei posti. Vabbè. Adesso mi sembra che Renzi abbia preso tutti per il culo e in contropiede. Ma io questo non lo so se ha preso per il culo in contropiede. Io sto a quella telefonata del finto Vendola a Barca, in cui Barca dice di aver subito delle pressioni da De Benedetti dopo aver detto no a Del Rio al posto di ministro dell'economia. Punto e basta. Mario da Pescara. Oh, buonasera. Dimmi. Senti, niente, io volevo un attimino, penso che l'avrete notato anche voi, questo Renzi, no? In che senso me, l'abbiamo notato? Il termine, è rincoglionito, cioè non ci sono altri aggettivi. Cioè, tu accetti una presidenza di un consiglio a termine, perché non andrà termine? Oltre il 30 di giugno. Ma questo chi lo dice? Ma chi lo dice questo? Tu lo dici? Lo dico io. Cioè, lo dici tu, ecco, specifichiamo. È una mia ipotesi, è chiaro. Sì. Allora? Non è basato. Questo che cosa fa? Va a fare il Presidente del Consiglio il 30 giugno, al massimo, cade, perché lo fanno cadere. Ancora? E chi tornerà al governo? Chi torna al governo? Avanti. L'unico che è il più grande, ha un intelletto superiore alla media, perché chi sarebbe? Berlusconi. Mille rincoglioniti, e Berlusconi vince facile un'altra volta. Vince stiamo facile un'altra volta. Bene. Ma stiamo riconsegnando ancora l'Italia in mano a Berlusconi. Ma chi l'ha detto? Ma è sicuro così, guarda. Fermi tutti. Rosa, rosa, rosa. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Ciao amore, come stai, caro direttore? Non vi abbandonerò mai. Lo so, un po' di tempo che non viene però, Come mai Davide un po' di tempo che non viene? Non lo so, io l'ho visto qualche la settimana scorsa. Un po' stanco l'ho visto, però si può chiamare a Roma oggi. Ma non so che deve fare uno spettacolo in teatro. Sì, voleva fare questo spettacolo in teatro. Ma chi glielo fa fare? Alla Sala Umberto. Ma chi glielo fa fare? Dai, su. Alessandro da Lucca. Sera Cruciani. Dimmi. Farò rispondere a Davide che diceva che Grillo sta facendo manifestazioni, fa pubblicità e lui ma che c'entra la pubblicità? È normale, che deve fare? Fa politica. Cioè, ma certo, e allora? C'è una piccola differenza, che in Russia l'hanno considerata vietata, quindi se vai a fare il cretino lì, come che Lussuria ha fatto questi anni qui. Questa baracconata a Sochi. E invece in Italia Grillo può fare quello che cazzo gli pare perché non è vietato. Bravo, quindi, bravo, due cose questa completamente è la bravo, bravo. Caro, caro Parenzo, è ma vietato. È ovvio che siamo quindi, meglio noi in questo, ma mi sembra ma evidente. Questo è sicuro, ma questo è sicuro, scusa. Ma questo immagine... è sicuro che siamo, quindi inutile stare a paragonare Grillo alla ma mica l'ho paragonato cazzo, io, l'ha chiesto un ascoltatore prima, ha fatto il paragone, per figurati. No, tu l'hai fatto anche. No, no, guarda, no, ascolti la registrazione. È benissimo che Russia non è in Italia, cioè Russia se fa delle cazzate, cioè ci mancherebbe altro. È ovvio, ma certo, siamo d'accordo. Quindi, l'ascoltatore ha detto: spiegatevi la differenza tra. Io l'ho spiegata qual è. Da una parte t'arrestano, dall'altra parte t'applaudono a massimo, esatto. Disputano. Quindi mi sembra che sia l'Uxuria che si è fatta più pubblicità alla faccia del cacchio. Insomma, ma l'Uxuria è andata lì per una trasmissione televisiva con l'obiettivo di fare casino e di farsi arrestare. Punto. L'Uxuria va a fare una trasmissione televisiva e me l'hai detto. Cioè, è arrivata l'Uxuria a fare una trasmissione televisiva in Russia, ma te lo immagini a che livello siamo. Però ma grazie a Luxuria abbiamo avuto conferma. Ma grazie a Luxuria che se ma è pieno di reportage ovunque su quello che succede in Russia. Basta baracconate, basta buffonate. Ecco ma infatti, basta buffonate. Basta, Giovanni da Messina. Cioè, Giovanni da Messina. Abbiamo bisogno delle persone che vanno in Russia con le piume, con la cosa tricolore, piume, con, le iene dietro, pagati profumatamente le iene. Dalle iene. Ma dai, smettiamo. È un'azienda privata quella, potrà decidere di fare dei servizi reportage. Ma non è la difesa dei diritti civili. Quella è una trasmissione televisiva, punto. Giovanni da Messina. Che ha contribuito a dimostrare il regime russo. Ma quale regime? Smetti, regime. E allora vai lì e non rompere. Giovanni da Messina, il regime russo. Pronto? Vediamo, vai lì a fare la trasmissione, vediamo che succede. Ma che c'entra? Vai, vai lì. Siete proprio insopportabili. Regime russo. No, cos'è una democrazia avanzata? Non ho detto questo. Democrazia avanzata. Hanno fatto una legge in cui vietano. Pur di dire stupidaggini, devi difendere Putin. Non sto difendendo questo. È una follia assoluta. Beh, voglio dire. Anche banale dire che in Russia ti arrestano. Vabbè, Giovanni, dai. Giovanni, pronto? Dimmi. Giuseppe. Dai. Volevo dire a Parenzo una sola cosa. Lui ha una vita che sbandiera il fatto di essere comunista. Beh, va bene per lui. Ma come fa poco fa a apostrofare che Luxuria è stata presa dagli scagnozzi di Putin? Ma quali scagnozzi? C'è una cosa contro? Ma Putin manco lo sa, se ne fotte, dai. Fammi sentire un attimo Grillo di nuovo. Grillo. È uscito da una sede piccola del Movimento 5 Stelle inaugurata da poco e da lì ha iniziato questa sua passeggiata. Una vera e propria marcia, perché più metri faceva e più si arricchiva di fatto il numero delle persone che lo seguivano. È stato anche molto rischioso seguire Giovanni, il allora? Suo percorso fino all'Ariston. È Giovanni? E ha approfittato del palchetto solitamente. Giovanni? Marco da Ferrara. Marco da Ferrara. Dimmi. Io volevo solo portarvi alla conoscenza di quello che vi ha detto il bolognese quando ha chiuso la telefonata. Ah, che ha detto? Ha detto che praticamente io ho capito che tu non hai capito niente, l'ha detto in dialetto bolognese. Ma a chi si riferiva? Capisco la sua ira, però non è stato molto educato chiudere la telefonata così. Sì, ma a chi si riferiva? Si riferiva al a chi? Suo collega. A Parenzo, vabbè. Donato da Varese. Vorrei parlare con un attimo con Parenzo, sì, è possibile? Sì, è qui Parenzo. Ascolta un po', Parenzo, io purtroppo mi hai fatto un esaurimento e mi hai completamente debilitato. Oh, addirittura, meno male. No, ma no, debilitato perché io credo che Parenzo, non lo so, che cazzo vorrei dire, non lo so, sono avviso problema. Allora, Parenzo, diciamo, io se prendo una bandiera e vado anche davanti in Parlamento a dire qualche cosa, io anche io li rischierei di essere di mezzo e fermato, non arrestato. Ma fermato, ma non puoi fare niente. Io se prendo con la chitarra vado a suonare in mezzo alla strada, arriva il vigile, mi fa una multa. Questo è un regime. Io non capisco, Donato da Varese, come si faccia a non capire la differenza tra quello che accade. Ma fai parlare Cosdra, quello che accade. Fallo parlare. Allora sentiamo la stupidaggine. Dalla mattina alla sera, io sono qui relegato con la mia musa, non posso fare una minga, ma tu sei lì, ti rendi conto che tu hai il potere di parlare a milioni di persone. Ma tu dici, ma chi ti ha investito di questo potere nefando, pernicioso? Ma la Russia fino a ieri era un regime comunista, voi comunisti l'avete sempre spalleggiato e vi siete arricchiti. È arrivato un uomo tutto di un pezzo, serio, onesto, che dice che siccome che Dio, per quelli che credo, ha detto che esiste un uomo e una donna, ma non esistono i travestiti. Se quello va in un paese a fare il cazzo che vuole, mentre qua in Italia purtroppo è tutto permesso, ma questo Made in Italia ormai è diventato un cesso mondiale, dove tu, diciamo, gente come te, io credo veramente bisogna proprio staccargli tutta la lingua con tutto l'apparato, l'epiglottide, e non farti più parlare, perché sei veramente un disastro umano. Ecco, sei il nipotino ma di Putin. Credi, ma sei un disastro umano. Di Putin. Io vorrei tanto vederti, guardarti nipotino negli di occhi Putin. E confrontarmi con te. Io ti faccio vedere che ti faccio cadere in ogni angolo del tuo discorso, in un minuto discorso, che sei veramente un uomo pernicioso, nipotino e di distruttivo. Putin. Il nipotino distruttivo, di Putin. Sei distruttivo, ma tu sei la schifezza tu in mondo. Tu stai difendendo Putin, ti rendi conto? Ma non dici mai ti una rendi cosa conto, malato che non sei altro, che stai difendendo il regime di Putin? Però se ti piace così va bene. Ma non dici mai anche una minchia intelligente. E che me ne frega a me di avere il tuo consenso, scusami, eh? Io dico quello che penso, ma secondo te io mi per stasera quando vado a casa ripenso a quello che ha detto Donato da Varese, secondo te? Cioè, secondo te tu sei nei miei pensieri oggi? Dovresti. Andiamo avanti. Infinito, il mio consenso ti educa, ti forma. Donato da Varese. Che tu sei l'esasperazione del nulla, bellissimo, del niente. Tu cazzo, spalleggi ricchioni, spalleggi travestiti, attacchi quelli di destra che sono un milione di volte superiore al dipende, tuo piccolo e dipende, tapino cervello. Dipende. Attacchi, sei a favore degli extracomunitari. Dipende. Che devono riempirci tutto il nostro suolo, a cagarci in faccia, a staccarci le croce, a umiliarci, a telefonare a Radio Padania, ricattato Padania, che è dato Padania, addirittura a telefonare a un extracomunitario dicendo che Radio Padania fra poco sarà loro, ma ti rendi conto? Ma dove siamo arrivati? Questo è un paese venduto da gente di merda come te, gente di merda che dovrebbero essere messi in galera, ma credimi, proprio in galera, letteralmente con le manette in galera, ma non ai piedi, a quella brutta linguaccia che hai. Chi ti ha messo lì dovrà rendere conto al popolo italiano. Chi ti ha messo lì dalla mattina alla sera a dire le tue maledette stupide idiozie, deve dar conto al popolo italiano. Tu sei un anti-italiano per eccellenza, merda infame e incommensurabilmente pozzo. Ma che cammino? Arrivano. Guarda, adesso se a farti la. Assassino, io se ti fanno adesso la. Non ti preoccupare, adesso ti fanno la puntura, non ti preoccupare. Ucciderti. Caro Donato da Varese, ti fa un assassino. Se è un ascoltatore che piace a te, di quelli che insulta, fallo sfogare. Non ho capito, se fossi Donato? Sto soltanto, io ti sto facendo i complimenti, stronzo, ti sto facendo dei complimenti. Fallo parlare. Ti sto facendo dei complimenti. Tu sei l'esasperazione del, perché il diavolo parlare, ha voluto che tu il fossi stato deputato a parlare a fianco a Parenzo, a dire tutte le sciocchezze di questa terra. Poi, come ti permette a chiamare gli italiani razzisti? Come ti permetto? Ma io li chiamo galera. Razzisti fino a quando mi pare. Quando ci sono degli episodi di razzismo li chiamo razzisti, e come? Perché nessun italiano è razzista. Tu devi tornare in corsia, secondo me. Sono arrivati in... Tu devi tornare nel letto, devono rifarti una punturina di quelle importanti, i razzisti, eh? Secondo te, pezzo di merda, sarebbero a te ti devono fare intanto a te ti devono fare una bella puntura, a te, capito? L'italiano, cioè, ti devono fare una bella puntura a te, eh? I testicoli completamente irranciditi da gente infetta. E ti piace il tuo ascoltatore, ecco, come te, putrefatta come te, che ti sei preso, ardisci a stare lì in quel posto, ma ti rendi conto, non ci sono io in quel posto, ci sei tu, faccia da merda, ma chi sei tu a stare lì? Esci fuori da quel buco e vai in mezzo ai tuoi amici islamici, quelli che ammazzano gli omosessuali, vai in mezzo ai tuoi amici islamici, quelli che ci stanno ricattando la cultura, ci stanno rivoltando dalla testa ai piedi, vai con quella gente, vai dai zingari, quelli che ti cagano in faccia, ti entrano in casa, ti spaccano tutto e ti cagano sui divani, vai da quella gente lì. Quando tu vai da quella gente lì e vivrai con quella gente lì, potrai quantomeno essere un po' più ragionevole. Ma è inutile che te sta nella borghesia a parlare con tutti gli stronzi della nomenclatura comunista che dovrebbero sparire da questa terra, e poi che cazzo fai? Ti metti a parlare dei poveri, dei diseredati. Parassita che non sei altro! Let's go. sentendo tutti. Hai mai provato a guardare un extra comunitario in una stazione normale di questo paese, a guardarlo solo 30 secondi? 30 secondi negli occhi. Dopo 30 secondi cosa ti succede? Vai, pezzo, figlio di puttana, vai! Vai e poi vedi cosa ti dicono, vai! Vai e poi vedi cosa ti dicono. Guarda le tre... E poi guarda per 30 secondi un italiano negli occhi. Guarda anche un uomo di destra negli occhi per 30 secondi. Non ti accade niente. Guarda un islamico nell'occhio. Nell'occhio per 30 secondi, senza muoverti. E vedrai cosa ti succede. Pezzo di merda. Tu sei un assassino intellettuale. Merda infinita, fuori da quel posto. Parenzo? Dimmi. Rispondi? No. Vabbè. Giovanni, provincia di Messina. Ma rispondo a un delirio, sì. Ma te stai scherzando? Giovanni dalla provincia di Messina. Allora, volevo dire a Parenzo, non voglio essere così aggressivo come l'ascoltatore precedente, perché non è corretto, però non si può difendere la Russia come lui la difende a spada tratta da comunista, che poi apostrofa i scagnozzi di Putin. Il disagio fondamentale non, oggi per sua informazione non interessa niente a nessuno, non ho mai difeso la Russia, mai. No, ho capito. Per sua conoscenza, ma non interessa a nessuno, non ho mai difeso la Russia. Ho detto semplicemente una cosa che sanno anche i sassi, che il regime di Putin è un regime che incarcera gli omosessuali e molti altri, e i dissidenti anche politici. Ma scusa, se sei comunista... Ma io non sono comunista. Nessuno ha mai detto comunista? Di essere comunista. Mai votato comunista perché ero troppo giovane. Fermi, fermi tutti. Then pray for yourself. Then pray for yourself. 'Cause the game of silence coming. No, it will not be made. Daniele Venturi, presidente e fondatore dei Papa Boys 3.0, buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? Beh, in grande forma psicofisica. Senti, ma sai chi è l'autore di questa canzone? La conosci questa canzone innanzitutto? E guarda, devo dirti la verità che non riesco a sentire molto bene. Ho sentito un po' di musica melodica, se non sbaglio. Un po' di pop c'era? No, adesso questa canzone qui. La sai chi la canta o no? Credo che sia un certo Rufus. Un certo Rufus, sì, Rufus Wainwright. Sì, sì, appunto, mi sembra di averla sentita, non sentivo molto bene. Ma perché non lo volete a Sanremo? Perché è autore di questo brano gay, messia e cose di questo tipo? Ma diciamo che principalmente penso che il Festival della Canzone Italiana sia, sia ancora una cosa che si possa proporre alle famiglie, no? Che sia una cosa nazionale popolare. Vabbè, questo qua non è che viene a cantare l'elogio dei gay o... Ma io con l'elogio dei gay purtroppo sono abituato e sopravvivo e sopporto, vivendo soprattutto nel mondo dei giovani, che comunque hanno, hanno anche nel mondo dei giovani della chiesa che frequentiamo, ci sono dei ragazzi che o delle ragazze che hanno questo tipo di tendenza, che non hanno assolutamente nessun problema. Ma scusi, secondo lei un uomo che va con un uomo che cos'è? Secondo me personalmente un uomo che va con un uomo, un po' di confusione in testa e soprattutto nel cuore, però questo è secondo me. Secondo lei? Secondo me. Cioè secondo è un po' un animale? Più che altro è il comportamento, non mi permetterei mai di comportamento di che tipo? Comportamento è il comportamento, diciamo, sessuale, se vuoi chiamarlo così, è un po' quello. Tipo, posso dirti una cosa? Dimmi. Mi fanno un po' ridere delle volte tutti coloro che attaccano la chiesa di essere omofoba, è chiaramente una grande ma che comportamento è quello sessuale? Scusami, degli no, ma ti dico, nessuno dice che è molto più grave nei comandamenti il peccato del marito che tradisce la moglie e se ne va per strada con la prostituta a sfasciarsi la famiglia. È molto più grave, perché quello lì è tradire un sacramento che si chiama matrimonio, no? Quindi ricordiamoci sempre, perché non dobbiamo dimenticarci, ma io vorrei capire se il peccato e non secondo te il peccatore. Vabbè, d'accordo. No, ma è importante questo. Però scusami, Daniele, il comportamento sessuale tra gay, che comportamento è? È un comportamento che, come dice il magistero, è un po' disordinato. Cioè bestiale, dici tu? è disordinato, bestiale inteso come animalesco, no? Animalesco. Però, ma com'è, è come la sessualità fuori dal matrimonio, è come tutta, tutto ciò che è sfera sessuale che si approccia in maniera disordinata. Ma questo non perché? C'è... Perché c'è la, la cosa, perché c'è, come si chiama? Il, com'è che perché dice? C'è la parola di Dio, che sono anni che nonostante qualcuno vuole governare il mondo comunque lo governa ancora la parola di Dio. Ah. No, però, ma non scusi, questo che pensa Venturi è abbastanza moderno. Un Papa Boys, per ma perché c'è la sodomia? Ma guarda, la, la sodomia intanto è una cosa biblica, cioè ne parla la Bibbia addirittura nel Vecchio Testamento, quindi quello è ancora un discorso da approfondire volendo. Cioè San Paolo è ancora più duro di oggi, perché comunque San Paolo, che giusto era un ebreo che uccideva i cristiani e poi credo che abbia incontrato un pezzo del Signore, no, che parlava di ladri, rapaci e dunque ladri, rapaci, assassini, ma la Rai in questo omosessuali che non erediteranno il regno di Dio. Io per penso carità. La Chiesa, no, dico anche noi. No, però scusami Ventura, scusa un attimo, io vorrei capire una cosa, ma una Rai che invita questo Rufus, sì. Che Rai è? È una Rai che propone diavolo. Un modello, ascoltami, è una Rai che propone un modello fuori di testa, dai, alle famiglie italiane, ci sono dei bambini a quell'ora che guardano la televisione ogni anno. Ho capito, una canzone, vedono che male fare un po' di ascolti, bisogna sempre andare a attaccare il povero Gesù, che è crocifisso anche per noi, anche per me, anche per te, anche per Rufus, è risorto, per tutti noi. Quindi perché continuare ogni volta a continuare a attaccare questo povero signore? Vabbè, ma che cos'è? La Rai posseduta da Satana? Da che cosa è posseduta? Ma direi che sicuramente grandi cose di satanismo in Rai ci sono, basta vedere lo spot per il canone 2004. Satanismo? Nel quale... Satanismo, guarda, alla Rai? Probabilmente non sai di che parliamo e questo lo dimostra la tua domanda che mi fai, però posso darti una piccola intro, nel senso che se tu guardi gli spot del canone 2004, dentro una famiglia, dentro una famiglia ci sono dei bambini in un appartamento vuoto dove non c'è cultura, c'è solo uomo. Ma che c'entra? Ma che prendono fuoco. No, non devi dire che c'entra, devi guardare lo spot. Ma prendono, ma è uno spot. Ma che c'entra Satana? Lo so caro mio, ma sai benissimo che cosa sono questo tipo di messaggi. Ma che messaggio è? Sono? No, che messaggio è? La velocità è un messaggio che è assolutamente un messaggio a sfondo di rituali satanici. Cioè ma quali rituali satanici? Dobbiamo chiudere, Venturi. Aspetta, dobbiamo chiudere. Ciao, perciò fatti un po' con le cazze tu, non rompere i coglioni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Onorevole Gazzi, allora... Come Gazzi? Radio 24. La passione. Si sente.